Ma la signorina Anita aveva altre risorse. Ispirata senza saperlo da Franz Kafka, di cui ignorava tutto, lo fu altresì dal capitano Dreyfus, di cui non ignorava niente e che invece era morto da poco. Era morto il 12 luglio precedente e la sua morte aveva impressionato la signorina Anita perché, essendo figlia di un accanito dreyfusardo della Dordogna, la sua infanzia era stata scandita dai colpi di scena del caso Dreyfus, che conosceva a menadito come altre bambine conoscono il catechismo. Il 12 luglio se n'era andata e si era, per così dire, spenta una parte di quell'infanzia, mentre se ne andava e si spegneva l'eroe per il quale suo padre aveva tanto battagliato. A loro due, a suo padre e al capitano Dreyfus, aveva dunque pensato quella mattina del 12 luglio, arrivando in Rue d'Aboukir, dove già si appendevano i lampioncini in vista delle allegre musichette dell'indomani, e si era messa al lavoro, un po' triste e pensierosa, dato che né il signor Ziegler, né il signor Jean, né nessun altro a femmina prestigio aveva menzionato lo storico decesso. Lei aveva fatto come tutti gli altri e si era tenuta per sé i suoi pensieri, fino al momento in cui il signor Jean aveva chiesto il bordereau Jaspard. In tanti anni che si pronunciava la parola bordereau, una buona ventina di volte al giorno negli uffici di Femina Prestige, quella mattina per la prima volta essa risuonò in maniera così incongrua alle orecchie della signorina Anita, che ne fu turbata al punto da non riuscire assolutamente a metter mano sull'anodina nota di contabilità corrente. Lo stava cercando tra gli altri bordereau quando dalla stanza accanto le era giunta la voce del signor Jean che si spazientiva. Era chiara l'allusione all'importanza che ebbe la sottrazione di un bordereau nel caso Dreyfus. Allora questo bordereau, che diamine, lo sta fabbricando, signorina Anita? No, signore. È tanto tempo ormai che non si fa più e non si va più all'isola del diavolo. Non aveva potuto fare a meno di mormorare la signorina Anita al suo padrone posando il bordereau Jaspard sulla scrivania. Ma il signor Jean non aveva risposto e la signorina Anita si era chiesta se il signor Jean avesse sentito la sua osservazione e nel caso in cui l'avesse intesa a dovere perché non avesse risposto. La giornata era comunque trascorsa senza che venisse minimamente evocato il nome del capitano Dreyfus, e da allora la parola bordereau continuava a far sussultare la signorina Anita ogni volta che veniva pronunciata, vale a dire spesso. Era diventato un tantino ossessivo e lo era rimasto ben al di là di quel famoso 12 luglio. Fu ripensando al famoso bordereau che la signorina Anita tirò fuori il foglio giallo per illustrare ciò che intendeva con l'aggettivo astuto. Dal canto suo stentava a disgiungerlo dal sostantivo mascalzone e dal verbo fabbricare. Tirò dunque fuori il foglio giallo e, riprendendo gli argomenti di Stepan, gli chiese se il testo Yiddish, che lei non capiva, fosse proprio fedele al testo francese che capiva anche troppo bene. Allora ci si rese conto che nessuno nel laboratorio aveva ritenuto opportuno leggere veramente la versione francese, e a questo punto la signorina Anita decise di procedere a una lettura comparata. Il tempo passava, nessuno lavorava né nel reparto pellicceria né in quello donna e bambina. Tutti tenevano un foglio in mano come una volta a scuola e non si tardò a scoprire qualche leggera differenza. Si tardò ben poco perché cominciava fin dalla seconda riga. Erano inezie, sfumature che si sarebbero potute assimilare a licenze poetiche a condizione che il loro autore si fosse presentato con una grossa lira a tracolla e il disarmante candore di un trovier, che pretende di cantare in Languedoil la canzone che sotto altri cieli un trovatore ha composto in Languedoc. Per esempio, uscite dall'ombra non siate più clandestini, era la trasposizione di non restate nella notte soli ignorati da tutti. Non lavorate più la notte, quella di non vegliate più fino all'alba, mentre sotto costo sostituiva per una miseria e le vostre camere ammobiliate sostituiva la camera sotto i tetti. A quel punto della lettura comparata, la signorina Anita sapeva cosa pensarne. Ce l'aveva in mano il suo bordereau. Uno dei due testi era un falso. Restava da sapere quale. Chi fosse a tradurre, o meglio, chi fosse a tradire, era l'Yiddish, trasformando la notte complice in notte dell'oblio, o o il francese, mutando la miseria imposta in sottocosto consentito e la mansarda di Mimi Pinson in camera ore. La signorina Anita aveva in mano il suo borderò e insieme la sua calzante definizione della parola astuto. Batté le mani, si sentiva sempre più a scuola. Un buon quarto d'ora era trascorso in disquisizioni linguistiche, dato che ciascuno teneva a dare il proprio contributo alla ricerca della verità. La parola notte, per esempio, apparentemente così semplice, aveva suscitato una sfilza di interpretazioni possibili, a seconda che si volesse considerare la notte come la fine della giornata, di una speranza o di una vita, come il regno delle tenebre o quello dell'ignoranza, per non parlare della notte dei tempi. Ma ci si era accordati sul fatto che in nessun caso poteva sostituirsi alla parola ombra. Forse quella di un albero, di un muro, di un cappello, l'ombra non era niente senza il sole. E dato che il sole è sempre tramontato quando è notte, per farla breve si erano persi 5 minuti buoni a cavillare sulla parola notte. Se ne erano persi altri 8 con la camera sotto i tetti, che a seconda delle diverse origini poteva essere sotto la paglia, l'ardesia, le tegole o perfino lo sterco di mucca, con un lucernario, uno sportellino o un occhio di bue che si apriva su pianure innevate, strade di periferia, il Mar Nero, i Carpazi o il lago Balaton. Allora la signorina Anita aveva battuto le mani per annunciare la fine della ricreazione filologica e esigere il silenzio che ottenne e di cui Hiri, il cecoslovacco, si impadronì immediatamente. È vergognoso cambiare le parole, è vero. Mette una cappa nera sulle spalle dei crucchi e di tutti gli altri ebrei clandestini, come dicono in francese, è vero. Ma quanto al resto non cambia niente, né per le Galerie Lafayette, né per i padroni, né per le ore straordinarie. Sì che cambia, disse Stepan sempre dal fondo del laboratorio. Cambia tutto perché non si sa se sono degli antisemiti che hanno fatto tradurre in Yiddish o degli ebrei che sono stati tradotti dagli antisemiti. Se la prendono con tutti nel volantino, con te, con me. No, dicono che noi lottiamo nei nostri laboratori. Niente affatto, riprese Stepan. Non lo dicono in francese. In Yiddish, sì. In Yiddish dicono i vostri fratelli di razza lottano nei loro laboratori. Ma in francese dicono i vostri compagni lottano nei loro laboratori, non i vostri compagni ebrei. Tutti quanti si chinarono di nuovo sui loro fogli. La signorina Anita ne stava approfittando per riprendere infine la parola, ma Hiri gliela rubò per la seconda volta. «Hanno dimenticato di mettere ebrei dopo compagni, ma non cambia niente», borbottò in Yiddish. «Sì, cambia tutto, perché non hanno dimenticato di mettere ebrei dopo padroni. I compagni non sono ebrei, ma i padroni sono tutti ebrei, nel loro volantino in francese», ribatté Stepan, anche lui in Yiddish. «Vero, signorina Anita?» La signorina Anita stava per dirgli che dell'ultima frase non aveva capito niente, ma Stepan non gliene lasciò il tempo. Era la prima volta in assoluto che parlava così a lungo e così forte in pubblico e riprese in francese. «In questa porcheria, se la prendono con te, con me, con quelli senza documenti, con i padroni e le gallerie, tutti mescolati insieme, bisognerebbe però sapere chi sono». «Io lo so», interruppe una voce sbottando a ridere, «è la Samar». I nomi dei grandi magazzini parigini, tra cui la Samaritaine, Samar, è il più popolare. «È la Samar che ha fatto tradurre da Brunswick, tanto per rompere le scatole alle gallerie». Ci furono molte risate che si calmarono quando si sentì di nuovo la voce di Hiri. «Non cambia niente. Voi potete anche ridere, ma non cambia niente. Me ne frego di chi siano». Anche se è il fantasma di Pietrura. Ci fu una scia di «oh» tra i presenti. «Oh, quello di Herzl che ha scritto questa roba. Me ne frego. Hanno ragione per le gallerie, hanno ragione per i padroni. Del resto Ziegler non è ebreo ed è lo stesso il mio padrone. A proposito, dove sono i padroni, signorina Anita?» «Il signor Ziegler è rimasto in provincia. Il signor Jean deve essere tornato in nottata, ma non penso che venga oggi», rispose la signorina Anita. «Beh, se non viene a lavoro, non lavoro nemmeno io», dichiarò Hiri sedendosi a braccia incrociate davanti al tavolo. «In ogni caso, io non lavoro per le Gallerie Lafayette, e glielo può dire al telefono, signorina Anita. Forse lo farà venire, soggiunse il cecoslovacco con un sorriso cocciuto che distribuì scuotendo il capo a mo' di incoraggiamento per tutti quelli che lo guardavano silenziosi e costernati. La signorina Anita, ritenendo che a quel punto la parola astuto avesse dimostrato sufficientemente le sue capacità perché lei si astenesse da ulteriori spiegazioni, consultò l'orologio e annunciò che con tutto ciò si erano fatte le 10:30. «E allora? Cosa cambia?» la interruppe Hiri. «Io non lavoro, ma non impedisco a nessuno di lavorare. Forza, ragazzi, sbrigatevi a cominciare!» disse additando gli strumenti di lavoro. «E per non darvi fastidio vado a mettermi lì.» Si alzò, si allontanò dal tavolo, piazzò la sedia in mezzo al laboratorio, si sedette e incrociò le braccia. Ci fu qualche mormorio in Yiddish. La signorina Anita credette di capire che era di troppo. «Beh, vi lascio decidere tra voi», disse dirigendosi verso la porta. «Tra noi? Ma chi siamo noi, signorina Anita? Noi gli ebrei o noi gli operai di Femina Prestige?» chiese Hiri col tono dell'indovinello. La signorina Anita non trovò subito la risposta buona a quella buona domanda. «Anche lei può decidere per sé. Lei non è straniera, non è ebrea, non è operaia, ma anche lei lavora per Roginski e Ziegler, che lavorano per le Gallerie Lafayette, che lavorano per...» «Lo sappiamo, piantala, Kustov», dichiarò Stepan, che di solito lo chiamava per nome. «La pianto se voglio, Roginski», rispose prontamente Hiri. «L'ho già piantata di lavorare, posso anche piantarla di parlare, ma lo decido io. Io non ho conti da rendere al parentado». Hiri aveva abbassato il capo per scoccare l'ultima frecciata e si guardava le scarpe. Gli altri guardavano Stepan. Stepan guardava la signorina Anita e quella volta fu negli occhi della signorina Anita che si rivide mentre saltava dal treno ancora in moto sotto le grandi vetrate della Gare de l'Est. «Lei non è in buona fede, signor Kustov, e lo sa benissimo», disse la signorina Anita. Hiri continuava ostinatamente a guardarsi le scarpe. Gli altri ora guardavano Hiri, aspettavano in silenzio che parlasse. E Stepan continuava a guardare la signorina Anita. E la signorina Anita guardava Hiri in attesa che le rispondesse. Il foglio giallo tremava impercettibilmente nella sua mano destra. «Quello che ho detto non lo pensavo, Stepan», disse infine Hiri sempre a capochino. Poi lo rialzò e guardò Stepan dritto negli occhi. «Devi comunque dire a tuo fratello di venire. Finché non verrà qui, non lavorerò». «Lo sai benissimo che non parlo mai a mio fratello», ribatté Stepan alzando le spalle. «Ma bisognerebbe che venisse, non fosse altro per dirci se è vera la storia delle Gallerie Lafayette, perché se è vera, anch'io smetterò di lavorare». «Ma non prima che sia qui. Te poi, Hiri, fa quello che vuoi». E Stepan si diresse verso l'armadietto metallico e ne tirò fuori il camice bianco che non aveva avuto ancora il tempo di infilarsi da quando era entrato nel laboratorio. «Vado a telefonare al signor Jean», disse la signorina Anita, «ma credo che sua moglie non stia bene. Ah, anche la mia si è rotta la gamba agli sport invernali», le gridò Hiri, mentre risaliva al secondo piano. Tutti risero, perfino Stepan. Quelli di donna e bambina se ne tornarono nel loro laboratorio e il lavoro cominciò fiaccamente in attesa. In attesa del padrone. La signorina Anita tornò per dire che la linea con egli era sempre occupata. A mezzogiorno e mezzo tutti tirarono fuori la gamella tranne Hiri. Infine lasciò il suo posto di vedetta dal quale non aveva smesso di raccontare vecchie storielle di cui tutti dicevano la fine, talmente erano risapute, e che faceva sempre precedere da «E questa la sapete?» Era il suo modo di prendersi in giro da solo. Era anche il suo modo di ingannare un'attesa che lo angosciava un po' più degli altri, i quali non l'avevano seguito nella sua solitaria determinazione. «Farete pazientare il signor Jean se arriva», dichiarò infilandosi il cappotto. «Ho una colazione da fare, sarò di ritorno fra un'ora». E uscì. Un'ora dopo era di ritorno. Si aspettava sempre il padrone. Il lavoro riprese ancora più fiaccamente e Hiri riprese possesso della sua sedia. Di sopra si sentiva andare e venire la signorina Anita, a volte si sentiva anche squillare il telefono. Si sentiva perché si stava in ascolto come non mai, si spiava piuttosto e per spiare meglio si stava zitti. All'inizio del pomeriggio la signorina Anita venne a dire, un po' imbarazzata, che non aveva potuto parlare con il signor Jean in persona, ma che aveva lasciato un messaggio alla domestica che andasse in Rue d'Aboukir prima possibile. «E cosa ha detto la servetta per spiegare che il suo padrone non risponde al telefono?» chiese Khiri. «Non gliel'ho domandato, signor Gustave. Ho parlato stamani presto al telefono con il signor Jean. Sapevo che la signora Jean non stava bene, ve l'ho detto poco fa.» «Sì, ma stamani presto non avevamo letto questa roba, né noi, né lei e ancor meno signor Jean, perché questa roba non è piovuta nelle vie di Neuilly», esclamò Khiri brandendo il volantino. «In Rue d'Aboukir è piovuta perché è in Rue d'Aboukir che fa i soldi, signor Jean, non a Neuilly. Questo le deve dire alla servetta.» «Se non è qui fra un'ora richiamerò», disse la signorina Anita, che si accingeva a risalire. Esitò un attimo, poi soggiunse: «Lo chiameremo addirittura insieme se vuole.» E risalì al secondo piano. Khiri non disse niente, guardò Stepan. Tutti guardavano Stepan. «È vero che ora dovrebbe proprio venire», disse il coro guardando Stepan. «È vero», sentì rispondere il coro dalla bocca di Stepan Roginski. Giacché, con una sola frasetta pronunciata poco prima, da allora rinnegata ma pur sempre pronunciata, Khiri aveva cancellato anni di ordinario cameratismo in un modo che a Stepan parve irreversibile. Guardava Khiri scuotendo il capo. Si disse che probabilmente Khiri non aveva mai smesso di vedere in lui il fratello dell'odiato padrone e si mise curiosamente a sperare che Janek arrivasse. Che arrivasse presto prima di fare di lui, Stepan, il fratello di un mascalzone integrale. Ma passò un'ora e il signor Janek ancora non c'era. E la signorina Anita non scendeva. E il telefono aveva già suonato due volte. Quando finalmente fece irruzione nel laboratorio era molto rossa. «Il signor Jean non verrà», disse. «Non vuole parlare a nessuno del laboratorio. Sarà qui domani.» «Gli ha detto di me e delle gallerie e del volantino?» chiese Khiri. «Gli ho detto tutto, signor Gustav.» E la signorina Anita si interruppe. «E allora?» fece Khiri. «Allora penso che domani lui vi dirà meglio di persona quello che mi ha detto poco fa. D'altronde è quello che gli ho chiesto», disse la signorina Anita con uno strano sorriso. «Non deve essere un granché bello se non ce lo può ripetere, vero, signorina Anita?» La signorina Anita non rispose. Ci fu un momento di silenzio. «Signor Stepan, per favore, vuol salire un istante nel mio ufficio?» «Assolutamente no, signorina Anita», rispose Stepan scuotendo il capo. «Perché io? Non ha niente da dire a me che non possa dire davanti agli altri, specialmente se è una comunicazione del padrone.» Stepan non concesse il minimo sguardo né a Khiri né agli altri, non guardava che la signorina Anita. «Coraggio, signorina Anita, che cosa ci vuol dire?» La signorina Anita ispirò profondamente. «Mi sono informata dai nostri colleghi, anche da loro è arrivato il volantino. Quasi tutti pensano come me che questo volantino è una provocazione antisemita, ma tutti mi hanno confermato che diceva la verità sulle gallerie Lafayette, la cui direzione ha rifiutato di unirsi a un gruppo di commercianti che boicottano la Germania dopo le leggi di Norimberga che vietano ai vostri correligionari tedeschi di lavorare. Alcuni dei nostri colleghi hanno deciso di boicottare a loro volta le gallerie.» La signorina Anita riprese fiato. Era meno rossa. Aveva snocciolato la prima parte del suo discorso a occhi bassi. Rialzò la testa e si accorse che quelli del laboratorio, donna e bambina, si erano introdotti silenziosamente in fondo al laboratorio pellicceria. Aveva un vero uditorio e per una frazione di secondo ebbe la fugace visione di suo padre, come l'aveva visto così spesso nella saletta interna nel Café Benoît a Blassac, mentre smontava pazientemente gli ingranaggi della soluzione di Esterasi o quelli del processo Zola per un pugno di agricoltori increduli ma attenti. Riprese con tono più sicuro guardandoli tutti. «Alcuni dei nostri colleghi che hanno deciso di boicottare le gallerie Lafayette sono ebrei, altri non lo sono. Certi l'hanno fatto dietro pressione dei loro operai, altri di loro spontanea volontà. Posso dirvi fin d'ora che Femina Prestigi non farà parte di questi. La ditta continuerà a consegnare le ordinazioni, che ci piaccia o meno.» «Ha detto che ci piaccia, signorina Anita? Vuol dire che non piace neanche a lei?» fece Khiri alzandosi bruscamente dalla sedia e tendendo le braccia verso la signorina Anita come per bloccare il suo discorso. La signorina Anita arrossì di nuovo. Ho detto ci? Volevo dire vi, perché siete voi a eseguire le ordinazioni. Tutti voi, io non conto. Sono sostituibile, io. Anch'io sono sostituibile, disse Hiri. Sì, anche lei è sostituibile, signor Kustov. Se smette da solo di lavorare, come ha fatto oggi, ribatté gravemente la signorina Anita. Ed è quello che non le volevo ripetere quando mi ha interrogato poco fa. Preferirei che a diglielo fosse il signor Jean di persona. E perché voleva ripetere a me quello che non osava ripetere a Kustov, signorina Anita? Chiese Stepan. La signorina Anita non rispose. Perché me l'hanno chiesto, signor Stepan, disse lei quasi come una confessione. E chi gliel'ha chiesto, signorina Anita? E signor Jean in persona, perché lei mettesse in guardia i suoi compagni. Se si ferma il lavoro, ci saranno licenziamenti a Femina Prestige. Non per me. Io non sarò licenziato, disse Stepan. Beh, per forza, ghignò Hiri in Yiddish. Chiudi il becco, Kustov, intimò Stepan, sempre in Yiddish, senza guardare Hiri. Si rivolgeva alla sola signorina Anita e riprese in francese. Non sarò licenziato perché mi licenzio da solo. Non faccio lo sciopero, me ne vado. Ecco tutto, signorina Anita. Aveva parlato lentamente, pacatamente. Si alzò, cominciò a sbottonarsi il camice e si diresse verso il suo armadietto. Se tagli la corda, non è con questo che mi aiuterai molto, gli affermò Hiri in Yiddish. Non lo faccio per aiutarti, Hiri, lo faccio per me solo, rispose Stepan in Yiddish. Si chinò e raccattò uno degli esemplari del volantino che era caduto da un tavolo, lo appallottolò e lo buttò via. Questo coso è una merda, ma senza questa merda forse non avrei mai capito tutto quello che ho capito oggi, disse per se stesso, sempre in Yiddish, aprendo l'armadietto. Che cosa sta dicendo, signor Stepan? Chiese la signorina Anita con l'aria completamente sgomenta. Niente, troppo complicato, fece Stepan volgendo le spalle. Sul ripiano dell'armadietto prese un asciugamano in cui mise un pezzetto di sapone e un pettine, arrotolò l'asciugamano e lo infilò nella cartella accanto alla gamella. Poi si tolse il camice, che piegò accuratamente, staccò il cappotto dall'attaccapanni, richiuse l'armadietto e infine si voltò. Gli altri lo guardavano. Lui guardava la signorina Anita. «Non può far questo, signor Stepan. Aspetti almeno domani, come tutti gli altri», disse prendendo tutti gli altri a testimoni. «Se mi facessi investire uscendo, domani non mi vedreste. È lo stesso, no?» disse Stepan, agganciando la cartella in cui aveva riposto il camice. In giacca, col cappotto sul braccio e la cartella in mano, ora aveva l'aria come in visita. «Non è possibile. Hai già un lavoro da qualche altra parte, se te ne puoi andare così», insinuò allora Hiri. Stepan non rispose. Si infilava il cappotto. «Non sarà mica la succursale, per caso?» «Che cosa intende dire, signor Kustov? Femina Prestige non ha succursali», disse la signorina Anita, arrossendo di nuovo, ma stavolta di collera. «E come la chiama lei, la ditta dove sua moglie è sarta e sua cognata padrona? Non è una succursale?» «La casa maschere Bergamaschi non ha più niente a che vedere con Femina Prestige, signor Kustov. È una cosa recente, anch'io l'ho saputo solo poco fa. E se non ve l'ho detto è perché la cosa non vi riguarda. Comunque non lei personalmente, signor Kustov». Per una volta, Hiri non rispose niente. Neanche Stepan, per forza di cose. «Faceva parte delle cose che volevo dire a lei solo, signor Stepan», soggiunse piano la signorina Anita. «Sono davvero spiacente», seguitò allargando un poco le mani. «Capisco, signorina Anita, capisco, ma non cambia niente», disse Stepan con un sorriso gentile un tantino forzato. Si diresse verso la porta, guardando per terra. A un metro dalla porta rialzò la testa e li guardò tutti. «Allora, arrivederci a tutti quanti», disse, trasferendo la cartella nella mano sinistra per tendere la destra alla signorina Anita. «Ci pianti in asso? È tutto quel che vedo», gli affermò Hiri in Yiddish. «No, vi libero», gli rispose Stepan in Yiddish. Poi in francese. «Arrivederla, signorina Anita. Per il mio conto, 58 Rue de la Mar, Parigi, 20° arrondissement, per favore. Grazie». E uscì senza voltarsi. C'era ancora qualche macchia gialla sull'asfalto della Rue d'Aboukir, ma bisognava conoscere bene il volantino per riconoscerlo. Migliaia di suole l'avevano pesticciato fin dal mattino. Sul quadrante del grande orologio del boulevard vide che ore erano e si mise a correre, ma sapeva già che non avrebbe più trovato Elia. Salendo nel vagone, l'idea di fare un tragitto solitario l'angosciò. Aveva tante di quelle cose da dire a Elia. Poi, a poco, si calmò. Dopotutto, non era poi male essere solo per pensare senza essere spinto dall'urgenza di sfogarsi il più rapidamente possibile prima di arrivare a casa. Si sarebbe sfogato dopo essere arrivato per una volta, per la prima volta da molto tempo e per l'ultima volta e per sempre. Anche se non si sfogava completamente come avrebbe fatto in quel momento con Elia accanto, sapeva già che avrebbe aspettato ad essere solo con il suo amico per parlare del volantino e della paura. Ma per il resto, la cosa più importante, la sola cosa importante in pratica. Che bello sarebbe stato arrivare e annunciare a Olga e davanti a Zazà, a Sonia, a Maurice, ai Clément e domani all'Alverniat e a tutta la via se le interessava che non era più e non sarebbe stato mai più il signor Stepan della ditta Roginski Ziegler, ma Stepan Roginski, buon operaio pellicciaio, molto momentaneamente disoccupato volontario per ragioni di amor proprio. Ne sorrideva, di felicità e di impazienza. Si immaginò la faccia che avrebbe fatto Janek il giorno dopo, quella che forse già faceva all'altro capo della città, nel cuore di Neuilly, dove lui non aveva mai messo piede, seduto in un salotto dove non era mai stata offerta una tazza di cioccolata a Zazà, mentre ascoltava l'incredibile notizia comunicata dalla signorina Anita. La ripeteva alla moglie mollemente sdraiata su un divano con una vestaglia di pizzo intorno alla quale si affaccendava una cameriera schiava. E fu solo allora che ripensò a quella storia di succursale. Da quando si erano sistemate da sole al primo piano, lui e Elia avevano preso l'abitudine di disinteressarsi completamente delle storie di travestitrici delle loro mogli. Erano perfino arrivati al punto di dimenticare che la ditta maschere bergamaschi era anch'essa Roginski Ziegler. C'è da dire che loro vi contribuivano. Sonia e Olga non parlavano che di Alex. C'era voluto quel mascalzone di Kustoff per rimettergli sotto il naso quest'altra affiliazione e la rivelazione della signorina Anita per informarlo che non esisteva più da pochissimo tempo. Allora gli tornò l'angoscia e Stepan, salendo gli scalini della stazione Pirenee, si chiedeva se il suo ritorno a casa sarebbe stato quello di un disoccupato volontario oppure quello di un marito di una disoccupata suo malgrado. Poi, appena fu nella strada, l'angoscia si dissipò nuovamente. Attraverso i vetri dell'Alverniat scorse Nussbaum e Gromov e Barschi che stava telefonando. Gromov gli fece cenno di entrare. Stepan fu tentato per un attimo, ma nel gruppo non c'era Elia. Fece «No, grazie» con la mano che teneva la cartella. La cartella anormalmente gonfia, deliziosamente gonfia per via del camice che riportava a casa. E fu come uno scolaro in vacanza che salì le scale. Credette di vedere qualcosa di scritto sulla porta di casa Bonnet, ma la voce di Olga gli fece voltare la testa verso il pianerottolo del secondo piano. «Ci facevi paura a non arrivare». sono qui», disse Stepan, tendendo le braccia verso la moglie. La strinse e la baciò come non aveva più fatto da tanto tempo. Maurice, Robert, Samy si fecero ripetere ancora una volta reciprocamente la formula della legge di Ohm, il calcolo del volume del cono e le date chiave dei 100 giorni. «Così, se per tutto il resto si fa la figura dei fessi, ce la caveremo almeno con la roba a memoria», disse Samy richiudendo i libri. «Su, io me ne vado a casa. Dormite bene, compagnucci!» Attraversò il laboratorio nel buio e sbatté la porta di casa Bonnet. Maurice radunò le 3 tazze e la caffettiera che portò sull'acquaio. «Sarebbe meglio non si accorgessero che ci beviamo il loro caffè», disse lavando le tazze, mentre Robert rimetteva il pacchetto di caffè macinato corselé sulla mensola accanto ai libri scolastici. «Se ne devono fregare che gli si beva il loro caffè la vigilia del pre-bac, una specie di prova generale della prima parte della maturità». «Papà me l'ha chiesto, stavo per rispondergli, a quel punto è arrivato il padre di Zazà. È andato tutto a farsi benedire, ha piantato la ditta, allora si sono messi a parlare tutti insieme e non sono stato molto a sentire perché dentro di me mi recititi retupatule recubans. Credi che ci appiopperanno Virgilio domani?» «Come sarebbe a dire che ha piantato la ditta? Zazà ha mangiato giù da noi e non ne ha parlato. E io che credevo che la grande notizia della giornata fosse che tua madre e la madre di Zazà erano diventate una specie di cachosiane. Sì, c'è anche questo, sorrise Maurice, ma questo l'ho capito meglio. Ha l'aria mica male quella storia di coupé. Che ne dici? Come l'hai saputo tu, da Zazà? Non da Zazà, né da Josette, ma da mia madre, da mio padre. Ci ha fatto una lezione sul collettivismo per tutta la cena e se anche non fossi stato a sentire, visto che sulla porta c'è scritto cooperativa grosso così, l'informazione secondo cui stiamo entrando nell'era dei mutamenti sociali non mi poteva proprio sfuggire, fece Robert con finta gravità. E non trovi che sia una buona cosa? Chiese Maurice vagamente inquieto. Anzi, la trovo fantastica, fantastica! Specialmente per l'uso che ormai potremmo fare di questa caffettiera italiana e di questo caffè brasiliano macinato corselè che non appartenendo a nessuno è di tutti quanti e di conseguenza è tuo come è mio, ammesso che abbia capito papà, al quale peraltro anch'io sono stato in grado di spiegare che cosa fosse un prebac, benché ne avesse espresso il desiderio prima di tuffarsi nella minestra di zucca. Come vedi, c'era poco da divertirsi anche di sotto stasera. Robert consultò l'orologio. «Sono le 10, si può leggere per una mezz'ora, tocca a me». Robert lesse per una mezz'ora. «Continua, ma ora si ronfa», disse Robert fissando il morsetto della lampada a fungo sulla pagina che aveva appena finito. «Guarda, siamo a più della metà», disse, posando il volume sulla sedia che separava i due divani, e spense la lampada. «Bisognerebbe mettersi a leggere più lentamente perché duri di più», fece Maurice nel buio. «Boh, si potrà sempre ricominciare quando l'avremo finito», suggerì Robert. «Non sarà mai più la stessa cosa. Sapremo tutto quello che succede. Se la prendi così, si sa già che mancheranno Chiang Kai-shek». «C'era la sua foto anche sul giornale di ieri», sogghignò Robert. «Sì, ma non si sa ancora né come né perché l'hanno mancato. È questo che è eccitante, e non sarà mai più altrettanto eccitante anche se si rilegge 10 volte, disse Maurice. È vero, dai, ora si dorme, mugolò Robert affondato nel guanciale. Si sentiva parlare di sopra, poi ci furono grandi scoppi di risa. Fosse possibile dormire, sospirò Robert. A cena forse non erano allegri, ma dopo cena non sono tristi in casa tua. No. Fece Maurice contagiato dal riso di suo padre che copriva gli altri tre. Era da un pezzo che non li sentivo spassarsela così tutti e quattro insieme. Frugò nella memoria, ma l'immagine sfuggente non gli tornava. Senti, ora ci si mette il padre di Zazà. Se continua così, vado a protestare dalla portinaia, sbottò a ridere Robert. La qualcosa fece sbottare Maurice. Povero zio Stepan, è raro che rida. Devono aver bevuto un bicchierino dopo cena. Magari per festeggiare i calhos? Maurice non rispose. Le risa si erano calmate. Ora si sentiva semplicemente parlare. «Quanti anni può avere Katov?» chiese Maurice a mezza voce. «Non lo so, perché?» sbadigliò Robert. «Perché è ucraino e mi fa pensare a papà. Ci pensi? Sarei nato a Shanghai se fosse andato nell'altra direzione». «Se fosse andato nell'altra direzione non saresti neanche nato, coglione. È un rivoluzionario, Katov, e i rivoluzionari non fanno figli, non hanno tempo», decretò Robert. «Mi piace, Katov», fece Maurice dopo un breve silenzio. «Robert?» mormorò un vago. «Anche a me, ma ora si dorme». E Maurice lo sentì voltarsi dalla parte del muro. «Lo sai perché ti piace, Katov?» «No», disse Maurice tutto contento che Robert non l'avesse ancora abbandonato. «Perché ti piace più degli altri?» «Perché Katov non può dire assolutamente. Dice assolutamente come il tuo papà e la tua mamma». «Assolutamente!» esclamò Maurice. «Come ha fatto a indovinarla, mio caro Clapic?» «Elementare, mio caro Chen. Ma se apre bocca ancora una volta, la pugnalo attraverso la zanzariera». «Salve, compagno». «Salve», fece Maurice voltandosi anche lui dalla parte del muro. Si erano inventati un gioco. Non sapevano ancora che l'avrebbero giocato tanto a lungo, che le sue regole segrete sarebbero loro servite da codice segreto per tutto e per niente. Ridere, commuoversi, indignarsi e tacere. Maurice ascoltava il respiro regolare di Robert. Di sopra si stavano separando. Le sedie strusciavano sul parquet, i Roginski tornavano in casa loro e i Gutmann stavano per entrare in camera. Tendendo l'orecchio, Maurice percepiva i loro bisbigli. I suoi genitori non si erano mai potuti abituare a non bisbigliare in camera, come se avessero ancora paura di svegliarlo. Probabilmente quello sbisoriare celebrava i grandi mutamenti elargiti dalla giornata che si stava concludendo. Poveri mutamenti irrisori, pensò Maurice con affettuosa compassione e il vago rimorso di non aver saputo partecipare meglio alla gioia collettiva. Poi tacquero i passetti di Sonia in pantofole e anche i bisbigli. Rue de la Mar si addormentava. Maurice tornò nella notte di Shanghai, gravida di tutti i rivolgimenti possibili, di tutti gli ardimenti, di tutte le vigliaccherie, di tutti i dubbi e di tutti gli amori. L'estasi di Valérie, la bella bocca piatta di May, le taxi girls del Black Cat lo facevano sognare non meno degli oppiacei silenzi di Gisors. Non sapeva ancora che fra qualche giorno, nelle 150 pagine che gli rimanevano da leggere, ci sarebbero stati dei morti. Ignorava anche che avrebbero avuto voglia di piangere, che non l'avrebbero dato a vedere e che per meglio nasconderselo si sarebbero già serviti del codice. Prima di chiudere gli occhi sul serio, Maurice guardò dalla parte della sedia. Un fievole raggio di luna filtrava attraverso le tende arancioni e si rifletteva sul fungo giallo della lampada. «Gli fa un cappello cinese a Marot», si disse. Poi rivolse un ultimo pensiero all'indomani, ai 100 giorni, a Virgilio e al cono di rotazione.